evidentemente, così possiamo fare due chiacchiere in più. Dunque, cosa c'è da dire? Cioè, le cose sono tante. Noi però vorremmo cogliere, così normalmente facciamo, dagli eventi, da ciò che succede nell'universo carcerario, o perlomeno non potendo avere un quadro generale su tutto quello che succede nell'universo carcerario, nelle quasi 200 carceri italiane, sono 196 gli istituti penitenziari, e non sono luoghi chiusi, difficilmente accessibili, con difficoltà che le notizie da dentro escano fuori. Questo è il problema principale. Il grande isolamento che è il carcere porta a questa difficoltà di conoscenza e comunicazione, che sono i due punti pesanti che portano appunto all'isolamento e anche alla ghettizzazione di coloro che sono rinchiusi. Però a volte appunto qualche notizia esce e la prendiamo per cercare di fare un quadro, perlomeno di riflettere, non tanto di dire questa cosa qui brutta, cattiva, ma quanto per capire qual è il funzionamento reale del carcere, perché il carcere continua a essere quell'oggetto sconosciuto e anche rimosso dal resto, da tutti i cosiddetti uomini e donne libere, o perlomeno che credono di essere liberi, e che è rimosso perché appunto viene in qualche modo c'è una come dire, una perplessità sul fatto che quella situazione lì, dove è rinchiuso il male, i cattivi stanno lì, le persone cattive, le persone da non guardare, da non conoscere, però tutto sommato quel male ci riguarda molto da vicino, addirittura sta dentro di noi, dentro questa società. E allora ecco, poiché appunto anche la società ha le stesse caratteristiche, questa, le società moderne, ma forse anche quelle antiche, quelle di tutti i periodi storici, hanno una difficoltà di essere capite e lette nella loro interezza. Qual è il significato di una società? Si dice far campare tutti bene, poi vediamo che basta aprire una radio o qualsiasi, una televisione o un giornale, ci dicono che per esempio in Italia, ma non solo in Italia, però in Italia per esempio i poveri aumentano, la gran parte delle crescono sempre più quelle persone che non riescono a campare, a sopravvivere, e devono quindi ingegnarsi in mille impicci, come si dice a Roma, in piccio e imbrogli per campare. C'è una, fatti di cronaca ci dimostrano una guerra tra poveri, un'assenza totale di come dire, di una comunicazione tra situazioni dove si stanno le persone subalterne, subordinate, sottomesse, schiacciate, diciamo i novelli schiavi, e non essendoci nessuna presenza che sappia organizzare, indirizzare la rabbia che pure viene, è chiaro che si produce guerra tra poveri. Ecco, comunque noi prenderemo un fatto che è successo qui nel carcere di Rebibbia alcuni giorni fa e tutte le chiacchiere che si sono svolte intorno per avere un elemento in più per conoscere che cos'è il carcere. Thank you. Allora, 15 e 6 minuti primi, iniziamo un po'. Che cosa è successo? Allora, mentre se leggete sui giornali, comunque chi si occupa un po' delle questioni carcerarie, ci sta tutto un grosso portato anche sui giornali nazionali, Repubblica, il Corriere della Sera, il Messaggero, eccetera. C'è tutto un grosso movimento di persone per bene che dicono: mandiamo i libri ai detenuti, perché il libro è qualcosa che permette una crescita culturale delle persone, una rieducazione, perché il carcere, si dice, è scritto da qualche parte sulla Costituzione, per esempio, che deve rieducare coloro che hanno sbagliato. E il libro serve, quindi, da cultura, conoscenza, fa crescere le persone, quindi mandiamo i libri in carcere. Ci sono diversi punti di sono stati creati da tempo, ormai ogni tanti anni questa attività si riproduce, ci sono dei punti di raccolta dove le persone per bene, normali, semplici cittadini, portano dei libri, questi libri poi da questi volontari vengono portati nelle carceri e vengono costruite le biblioteche di carcere. In ogni carcere grandi ci sono delle biblioteche centrali e poi ogni reparto, i carceri che hanno pure anche, diciamo, divise in reparti, e i reparti sono abbastanza, diciamo, popolosi, ci sono le biblioteche centrali e le biblioteche di reparto. Questa è più o meno la struttura. È stata fatta una grossa battaglia, perché non era così dall'inizio, diciamo dagli anni, sempre gli anni 70, gli anni della grossa mobilitazione nelle carceri, battaglie eccetera. I detenuti hanno ottenuto, attraverso la lotta e l'organizzazione interna necessaria alla lotta, di avere appunto queste biblioteche. Biblioteche che nella gran parte dei casi, sempre tramite proteste e lotte, sono gestite dagli stessi detenuti. Un esempio importante, visto che siamo qui, è il fatto che è successo qui in un carcere, nel carcere di Roma, il più grande di Roma, Rebibbia, non è il solo, ma è il più grande, è anche uno dei più grandi d'Italia. È che nel carcere di Rebibbia, nuovo complesso, perché nella zona di Rebibbia, quello che si chiama il complesso carcerario di Rebibbia, che vedete se andate da quelle parti, che vedete è enorme, molto espanso, non c'è un solo carcere, ce ne stanno cinque. Cioè, Rebibbia Nuovo Complesso, che è quello più numeroso, detto il giudiziario, dove ci vanno le persone in attesa di giudizio, però anche quelle definitive, perché appunto è molto grande, accoglie molte persone, è arrivato nei periodi di sovraffollamento quasi a 2000 persone, adesso sta più o meno così, fermato intorno ai 1500. Poi c'è la casa di reclusione su via Bartolongo, girando l'angolo, la casa di reclusione, che doveva tenere soltanto quelli in via definitivi, le persone che stanno alla fine del proprio percorso punitivo, della sanzione, insomma, e quindi da lì, perché da lì si mette in moto i meccanismi delle misure alternative per gli ultimi anni o gli ultimi mesi di carcerazione. Poi più avanti c'è il carcere femminile, e poi più avanti ancora c'è la terza casa, cosiddetta carcere a custodia attenuata, dove ci stanno prevalentemente i tossicodipendenti, quelli che hanno pene molto leggere, che c'è un via vai da lì alle comunità di recupero. Qualche volta poi qualcuno per qualche trasgressione viene mandato via dalla comunità di recupero, quindi torna lì e poi arriva alla comunità di recupero. Cioè, questo è una custodia attenuata, vuol dire che appunto ci stanno persone che hanno poco da fare, non hanno fatto grossi reati, e quindi il complesso carcerario di Bibbia è molto grande. Questo fatto è avvenuto nella parte principale, nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, che è quello che si affaccia su via Maglietti, la strada che poi incrocia la Tiburtina, e lì, e che ha appunto tantissimo, per 1600-1700 persone. Nel carcere di Rebibbia, grazie all'attività dei detenuti, fu costruita una delle più grosse biblioteche presenti nelle carceri italiane, la Biblioteca Papillon. prima nata come una quando c'erano ancora molti compagni nelle galere, quindi parlo degli anni 90, grazie a una forzatura, lotte, proteste, si riuscì a ottenere una biblioteca, perché il punto era, le biblioteche c'erano, ce n'era qualcuna, però erano gestite dagli educatori e dal personale educativo, il personale, diciamo, dai funzionari, non sono gli educatori, sono funzionari del ministero. Quindi si volevano invece delle biblioteche gestite dai detenuti insieme ai volontari, e questa cosa non era tanto ben vista dai direttori delle carceri e nemmeno dal ministero. Poi, grazie alle pressioni, le lotte, ma anche l'appoggio esterno di settori della società, qualche intellettuale eccetera, si riuscirono a ottenere. La biblioteca Papillon di Rebibbia quindi ha cominciato a prendere il posto di biblioteca centrale di tutto il carcere, accompagnata da altre biblioteche per ogni reparto. Sapete, il carcere di Rebibbia c'ha tanti reparti: il G8, il G9, il G11, il G12, il G7 eccetera. Ognuno di questi reparti ha anche una piccola biblioteca, però c'è quella grande che è appunto quella centrale. Questa biblioteca è gestita dai detenuti, che devono fare la domanda di poter andare dal proprio reparto alla biblioteca per lavorare, per fare la schedatura dei libri, l'organizzazione, la dislocazione degli scaffali, perché poi molte case editrici e molte librerie, dopo il lavoro fatto dai detenuti prevalentemente e da molti volontari, mandano periodicamente, ogni anno, dei libri in dono a questa biblioteca, quindi ha una ricchezza di libri molto interessante. La schedatura è stata fatta per tutti questi libri, cioè gestita da detenuti e volontari. Ora, è successo che, avete letto tutti, un mese fa, un fatto nuovo, perché purtroppo non succede più da tempo, una volta succedevano ogni 15 giorni. Mi riferisco alle evasioni. Le evasioni non succedono più tanto spesso nelle carceri italiane. Quando succede, quindi apri, dice, lo grande di Babbi, i giornali, non giovane perché, per come, eccetera. E fine, ci sono state tre persone sono evase dal carcere di Rebibbia. Finita la storia. Non si è saputo più niente. Non si è saputo niente perché non c'è questo interscambio di notizie tra dentro e fuori. Non c'è, perché i detenuti non è che possono parlare col fuori, non c'hanno questi strumenti. Possono fare i colloqui con i familiari, però i familiari a chi vanno a dire ciò che gli dice il parente detenuto? Dovrebbe esserci una struttura di organizzazione dei familiari dei detenuti, che poi raccoglie le informazioni di questi e le porta in situazioni come collettivi anticarcerari, radio anticarcerarie, giornali anticarcerari, che non ci stanno. E quindi una volta c'erano, oggi non ci stanno, quindi spesso quelle notizie anche interessanti che i detenuti dicono ai propri familiari si fermano al familiare, dice vabbè, ma chi lo vedo? Lo dice ai propri amici, il familiare lì finisce. Non si riesce a sapere ad averlo. È successo che noi abbiamo saputo la notizia quando due giornali, Il Fatto Quotidiano e Il Dubbio, hanno parlato di questo fatto, del fatto che il rappresentante, il difensore civico di Antigone, questa associazione che si occupa dei carcerati, e il garante dei detenuti, Stefano Anastasia, per il garante dei detenuti della regione Lazio, hanno scritto che era stata bloccata l'ingresso pomeridiano dei volontari. Inoltre erano state fatte una serie di altre cose. Allora, leggiamo questo qui. Antigone, chiudere attività di Rebibbia alle 15.30 mette a rischio la rieducazione, questo è il titolo. Non si può parlare di rieducazione e risocializzazione dei detenuti se poi alle 15.30 il carcere si chiude ad ogni attività e dalle comunità esterne. L'ha detto Patrizio Connella, presidente di Antigone, questa associazione che da tempo si batte, in riferimento al provvedimento adottato nel carcere di Rebibbia. Nuovo complesso, lì è successo il fatto, da lì sono evasi e lì è nato questo problema di interrompere tutte le attività a partire dalle 15.30 a seguito dell'evasione dei tre detenuti avvenuta qualche settimana fa. e quindi Antigone ha fatto una protesta per questa cosa. Poi si è venuto a sapere che anche lo sportello dei diritti, sempre che è uno sportello che sta, quindi c'è una persona, un responsabile di Antigone dentro il carcere di Rebibbia, e i detenuti possono andare a parlare con questa persona per sapere se alcune cose gli spettano o non gli spettano, cioè quelle cose previste dal regolamento, che però non tutti i detenuti conoscono a menadito il regolamento interno, perché appunto spesso non è manco distribuito, non c'è. Noi portiamo degli stralci sull'agenda scarceranda, che infatti molti detenuti sanno qualcosa di quell'insieme di diritti e doveri che è il regolamento carcerario, soltanto appunto tramite qualcuno che fa arrivare, come qui Radio Onda Rossa, la scarceranda. Infatti, come diceva il compagno prima che c'era prima di me, è uscita al nuovo numero scarcerata, e anche lì ci sta una raccolta di, diciamo, delle cose, diritti e doveri più importanti che spettano alle persone detenute, e quindi per saperne un po' di più. Comunque c'è questo sportello dentro le via, anche questo è stato chiuso. Poi, e quindi abbiamo saputo questa cosa qui. Il Fatto Quotidiano ne ha parlato il 30 novembre scorso in un articolo, poi è comparso anche su questa rivista molto Ristretti Orizzonti, che è una rivista specifica del carcere, però c'è solo online, non è che è in viaggio cartacea. E poi il 2 dicembre ne ha parlato anche Il Dubbio, un altro giornale che si occupa spesso di carcere. Da questi giornali, che appunto dicono queste due cose, hanno messo in luce un altro fatto abbastanza grave. Il fatto che, e questa cosa l'ha sollevata Stefano Anastasia, garante dei detenuti per la Regione Lazio, che quindi il garante dei detenuti, come abbiamo detto più volte, è una figura nuova, ripresa dal modello dell'ombudsman nelle carceri del Nord Europa, che è appunto quella figura, diciamo, l'avvocato per dei detenuti sarebbe, che però mentre nel carcere del Nord Europa ha, diciamo, diversi diritti, diciamo, può fare, può chiedere cose al direttore, cioè un po' l'alter ego del direttore. Il direttore sta dalla parte dell'amministrazione penitenziaria, l'ombudsman sta dalla parte dei carcerati e ha delle possibilità di muoversi. Qui in Italia questa figura del garante dei detenuti, che c'è quello regionale e quello comunale, intanto non c'è dappertutto, e poi comunque non ha, non si sa quali sono i suoi compiti, non è definito da una legge che definisce i compiti che ha, quindi in genere si muove a tentoni. Il direttore, se vi vuole dare le notizie, gliele dà, se non gliele vuole dare non gliele dà, quindi ha pochi poteri e quindi può difendere poco e malamente, non per sua cattiveria, perché non ci sono proprio le possibilità concrete. Comunque ha denunciato anche questa cosa, e ha denunciato il fatto che una perquisizione di qualche giorno fa, non si è saputo esattamente quando è avvenuta, si è saputo molti giorni dopo, nel carcere di Rebibbia è avvenuta una perquisizione, sempre nel nuovo complesso, nelle biblioteche, in particolare nella biblioteca centrale, la biblioteca Papillon, in cui cercavano non so che cosa, una perquisizione notturna molto pesante, che poi ci hanno raccontato, appunto, hanno buttato all'aria tutti i libri, l'hanno buttati per terra, calpestati, molti rotti, sfasciati, insomma hanno buttato giù tutti i libri dagli scaffali, in gran parte rovinandoli, e comunque vanificando tutto il lavoro di schedatura e di incolonnamento, insomma, negli scaffali dei libri, perché ci vorranno mesi per riordinarli. Questo è più o meno il fatto. Ora, questi due giornali, purtroppo due soli, hanno, Il Fatto Quotidiano abbastanza letto, Il Dubbio un po' meno letto, però insomma, per nome questi due giornali ne hanno parlato. Il resto ne hanno parlato circuiti interni alle persone che si occupano di carcere. Non ne ha parlato la grossa stampa, non ne hanno parlato nessun altro, insomma. Ma nemmeno dal carcere abbiamo sentito dire, sollevare urla, strepiti per queste cose, per questo che era successo nella Bibbia. Molti si sono indignati, e giustamente, perché c'è una cosa e non dovrebbe succedere. Perché non ha suscitato tanta di quella, come dire, la rabbia sicuramente l'ha suscitata tra i detenuti, perché è indubbio, no? Gli hanno sfasciato la biblioteca, le perquisizioni notturne, ti svegliano alle 4 di notte, ti mandano nei passeggi, ti buttano all'aria della cella. Ma perché quelle cose, e questo va capito fino in fondo, sono la normalità del sistema carcerario, quello italiano, anche gli altri, ma poi ognuno ha le sue piccole variazioni. Comunque il sistema carcere funziona mettendo al primo posto due categorie: la sicurezza e la punizione. Che cosa succede nelle carceri italiane? Quando c'è una protesta abbastanza pesante, oppure una tentata evasione, o ancora peggio un'evasione riuscita, o anche, che ne so, uno scontro tra detenuti e guardie, quando c'è un fatto che rompe la normalità, quello che gli uffici ministeriali del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiamano eventi critici sono quelle cose che non dovrebbero succedere, ma poi invece succedono. Quando avviene un evento critico abbastanza forte, quella realtà carceraria all'interno del quale si è prodotto questo evento critico, appunto evasione, rivolta, protesta forte, scontro con le guardie, viene messo sotto punizione, non il singolo o il gruppo di detenuti che hanno fatto quella cosa, ma tutto il sistema carcerario. È il meccanismo, se oggi, scusate la piccola parentesi, non si fanno più, per fortuna, siamo contenti, non si fa più il militare, la leva, la naia. Ma se, prima che si faceva la naia, chi l'ha fatta sa che, cioè il servizio militare obbligatorio, no? Il sistema militare funziona così: se in un reparto, anche lì, erano ragazzi dei 18 anni che andavano a fare la naia e poi tornavano a casa perdendo 2 anni della vita, ma insomma 1 anno e 8 mesi, 1 anno e mezzo, via via è stato ridotto e poi annullato, si rendevano conto che cos'è una struttura militare. Anche lì, se in una camerata succedeva una cosa che non doveva succedere, tutta la camerata veniva messa in punizione. Uno dice: ma perché? La giustizia dovrebbe punire il colpevole di una cosa. No, tutta la camerata viene. Il sistema militare funziona così negli eserciti, funziona così. Il carcere è una struttura militare. Che ne dicano tutti quelli vogliosi di diritti, che dicono: ma il detenuto ha dei diritti, c'è scritto, non c'è scritto. Quello che è scritto è una cosa, le parole belle, sapete, abbiamo in un paese dove c'è una bella lingua, ci stanno anche belle parole altisonanti, interessanti, che poi il problema delle parole, l'ho detto già una volta, oggi c'è un grosso dibattito tra i letterati su questo fatto, e sarebbe bene che però se ne impossessasse la gente di questo dibattito. Il dibattito che delle parole non significano la stessa cosa per tutte le persone, soprattutto per tutti i gruppi sociali. Una parola può voler dire, per esempio, è quella una delle più usate a sproposito, è la parola diritti, poi ci torneremo, ne parleremo a lungo. La parola diritti viene usata a sproposito quasi da tutti. Per i potenti, riferiti ai diritti delle classi subalterne, in realtà vuol dire doveri. Diritto al lavoro vuol dire che devi lavorare e non devi rompere l'anima, non che hai diritto a un salario. Che per i disperati, invece, i disoccupati, diritto al lavoro vuol dire avere un salario, sì, andare a lavorare, qualunque esso sia, ma purché mi diano un salario che mi permette di sopravvivere. Cioè, ognuno l'interpreta a modo suo, ma altre parole più sfumate hanno veramente più significati, e ogni gruppo sociale, ogni classe sociale l'interpreta a modo suo, a volte anche alcuni individui, ciascun individuo l'interpreta a modo suo. Questa è una di quelle. La punizione è intesa in mille modi, anche la madre o il padre puniscono il figlio che fa delle cose, no? Quella è chiamata punizione, ovviamente è ben diversa dalla punizione che si dà in carcere al detenuto che fa delle cose, ma anche in carcere il detenuto che fa una rimostranza, so, che urla, che sbatte una padella sulle sbarre una volta sola, cioè, viene punito, che ne so, col fatto che quel giorno non lo fanno uscire all'aria, o uno che fa una rivolta, uno scontro con la guardia o una tentata evasione viene punito diversamente. Anche qui la punizione va da 1 a 1000 a seconda della gradualità di quello che il carcere reputa sia stata la violazione: grave, meno grave, più grave, eccetera. Ma la cosa più importante, appunto, è che quando c'è uno di questi fatti, cioè uno di questi grossi eventi critici, tutto il gruppo carcere, tutto quel carcere o il reparto, cioè tutto quel complesso dove ci sta quell'insieme dei detenuti, viene messo in punizione. Perché questa cosa ha una logica, non è che sono matti, poi sì, non sono pazzi, non lo so, non ha importanza definirli. Il sistema militare funziona così: ha una sua logica, però, nel senso che come deve terrorizzare, impaurire le persone detenute perché rispettino quella disciplina che è assurda, non ha una sua logica interna, non è razionale, è una disciplina assurda, perché il carcere serve a introiettare, a far introiettare, ad ammaestrare ai detenuti una certa disciplina, qualunque che essa sia, senza che sia motivata da un fatto concreto. Non è la disciplina che tu devi prima prima infilare la vite e poi avvitarla. Ecco, quella pure è una disciplina. Non puoi prima girare se non l'hai inserita nel buco. E quindi lì c'è una logica. Tante cose hanno una loro disciplina, ad esempio la guida della macchina. Tu prima metti la prima, poi levi il freno a mano, lasci la frizione, pare. È una storia. Sono operazioni che vanno in un certo senso secondo una logica e una disciplina, altrimenti la macchina non parte. Se tu non levi il freno a mano, la macchina non parte. Se tu invece la prima metti la quarta, la macchina non parte. E quindi c'è tutta quella, anche è una disciplina, ma una disciplina legata a un fatto concreto, razionale. Invece la disciplina militare non ha questo senso, ha un altro senso di tu devi obbedire a un ordine senza, anche se ti pensi, se sei sicuro che non serve a niente, anzi a maggior ragione, perché tu non devi sapere a cosa serve, devi solo obbedire. Insomma, questo è il discorso. Quindi la punizione è sempre collettiva, a volte è diciamo il gruppo individuato come i più facinorosi vengono puniti ancora peggio, ma tutto il blocco carcerario. Perché? Perché questo sistema deve rompere la solidarietà. La forza del carcere, le guardie, comunque chi dirige il carcere lo sa meglio di noi, è la solidarietà tra i detenuti. Un detenuto fa una cosa e siccome sta insieme ad altri detenuti, gli riesce qualunque cosa sia, se c'ha la solidarietà degli altri. Un'evasione, anche se la fa una persona sola si organizza per fare un'evasione, una persona sola, è chiaro che deve avere il consenso tacito di tutto il reparto, perché gli altri detenuti se ne accorgono che sta facendo, no, questo lo sanno tutti, fanno finta di non saperlo, non dicono niente, però ci deve essere questa complicità, questa solidarietà. Loro la chiamano complicità, noi la chiamiamo solidarietà, perché la solidarietà è una gran bella cosa, no? Tu vedi che una persona sta a conquistare la libertà, ti può pure dare una mano, gli presti qualche cosa che non ha, comunque tieni il becco chiuso, come dire, no? Reggi botta, fai in modo che non venga scoperto, perché se una persona che riacquista libertà è un beneficio di tutti e tutte. Sapendo questa cosa, i carcerieri cercano di rompere questa solidarietà punendo tutti per uno. Il contrario, come noi diciamo, la vecchio slogan degli IVV, i primi del Novecento, quindi esattamente un secolo, più di un secolo fa, perché nel 1905 ci fu la fondazione, il congresso che fondò questa organizzazione degli IVV, Industrial Workers of the World, cioè lavoratori industriali del mondo, che era un'organizzazione, diciamo, si batteva per, diciamo, di carattere sindacale, però puntava al rovesciamento del sistema di sfruttamento, del sistema capitalistico, e voleva unire tutti i lavoratori del mondo. Beh, lanciò questo slogan molto importante, tanto la parola fondamentale era solidarietà, il giornale che c'era si chiamava Solidarietà, e il motto era: un'ingiuria fatta a uno è un'ingiuria fatta a tutti, cioè se ne colpisci uno come se avessi colpito tutti, noi lo difendiamo, chiunque esso sia. Una ingiuria fatta a uno è come un'ingiuria fatta a tutti, quindi questa solidarietà totale. Esattamente l'altra parte ragiona così, dice: se uno ha fatto un'evasione sicuramente c'è stata la solidarietà degli altri, tacita o consensuale, comunque sia c'è stata, quindi noi puniamo tutti i reparti. E così è stato, c'è stata l'evasione, il sistema ha messo in punizione tutto il reparto o tutto il carcere nuovo complesso per probabilmente 15 giorni, perché poi tutti questi che hanno parlato di carcere si sono arrabbiati, indignati perché fanno queste cose, è brutto, non è rieducazione. Non è il problema, la rieducazione, anche questa è una parola, è vero che nella Costituzione c'è scritto rieducazione, abbiamo spiegato anche perché i costituenti, prima di sedersi nell'assemblea costituente, la gran parte di loro erano passati per le carceri fasciste, quindi sapevano cosa era il carcere e quindi hanno smussato il concetto di punizione chiamandolo rieducazione o reinserimento. Però poi il carceriere intende la parola rieducazione come parola disciplinatura e punizione, e così è nei fatti. Rieducazione, se voi lo andate a chiedere a qualcuno, dice: certo, io lo sto rieducando, perché se fa una cosa che non deve fare lo punisco, quella è rieducazione. E più è forte la punizione, più quello crede, quello che punisce, che sia in atto una rieducazione. Questo è il concetto, per questo, per capire. Tutti si sono indignati, però non hanno messo in luce nessuno che il portato, l'essenza del carcere è questa: terrorizzare, ammaestrare, impaurire la popolazione carceraria, perché ne deve uscire da lì impaurita, strisciando a terra con la schiena piegata, non rialzarla più. Ecco, questo produce, deve produrre il carcere. Poi non riesce al 100%, ma questo perché appunto c'è tutto l'altro meccanismo, la solidarietà, la lotta, l'organizzazione che contrasta questo annichilimento. Però questo è il carcere. Allora, perché io, certo, hanno fatto bene a indignarsi, ma non ha nessuno ha messo in luce che il carcere è questa cosa qui. Per uno che fa una trasgressione si punisce tutto il complesso, per rompere la solidarietà, per far schierare gli altri contro chi fa una cosa. Capite il meccanismo? È come la guerra tra poveri che stanno scatenando nelle periferie. La si vuole scatenare, in parte ci stanno riuscendo, anche nelle carceri, dicendo: guardate, tutti i detenuti sanno questa cosa qui, non la sanno gli esperti, perché gli esperti ragionano sulle leggi, sui regolamenti, come se queste, quelle parole fossero di origine divina, no? Quindi prendo queste parole e dico: che c'entra questa, dice, questa chiusura di spazi con la rieducazione? C'entra, invece c'entra proprio, è proprio quella. Se tu, se anche un detenuto, fosse scappato un detenuto solo, era lo stesso meccanismo. Se un solo detenuto fa una trasgressione forte come l'evasione, o anche sequestra una guardia, si spaccia tutto, fa qualcosa di grave, si punisce tutto il carcere, perché così loro sperano, poi ancora non è successo dentro totalmente, fuori è già successo, che se uno fa una cosa, una piccola trasgressione, tutti gli altri carcerari, sapendo che verranno puniti loro per la trasgressione che fa quel pinco pallino, è chiaro che lo fermano. Cioè, questo è il meccanismo. Questo è il meccanismo dell'ammaestramento all'ordine, alla disciplina. Questa cosa non avviene solo in carcere. In carcere è smaccata, è così. Dice: ma come? Che c'entro io? Noi stavamo in cella, che ne so, a fare lo studio della scuola, perché stiamo praticando, facendo la scuola, così io stavo facendo, lavorando in cucina. Ma io ti punisco a tutti, punisco a tutti, perché dovete voi stessi fare la guardia ai detenuti perché non trasgrediscano. Questo è il meccanismo. Fuori questa cosa sembra più sottile, ma ha funzionato dappertutto. In ciascun ambiente, anche in mezzo a noi, quando succede un fatto che non dovrebbe succedere, si scatena l'accusa, il linciaggio, l'isolamento, si butta via. Cacciamo via quelli che non hanno rispettato le regole. Funziona anche tra di noi. Quindi conoscere il carcere è un modo per conoscere anche noi stessi. Allora, 15:37, per concludere questa storia delle dinamiche interne utili a conoscere il carcere, beh, qualche anno fa, diversi anni fa, qualche decennio fa, diciamo, gli anni 70 e 80, quando c'era un'evasione dal carcere, i detenuti, sapete, ci sono sempre gruppi di detenuti che hanno processi, no? L'attività processuale è continua, ogni giorno ci stanno gruppi di detenuti che vanno dalle varie carceri al tribunale a fare i processi per le cose che hanno fatto. Bene, quando c'era i detenuti erano organizzati in collettivi e c'era questa grossa solidarietà, chiunque andava al processo, anche se non c'entrava niente con quello per cui veniva processato lì, chiedeva la parola al giudice, gli dava la parola, siccome spetta la parola all'imputato, e rivendicava la evasione fatta anche in un altro carcere da un gruppo di detenuti, da uno, da due, da tre, da quattro, rivendicandola con una grossa vittoria di tutti i detenuti, rivendicandola come se fosse una sua responsabilità anche, no? E come una vittoria, perché un gruppo di detenuti aveva raggiunto la libertà e aveva combattuto realmente contro il carcere. È chiaro che questo fatto faceva allungare la cavallina, come si dice, nel senso che se trovavano il giudice un po' di quelli fumaioli e diceva ti ammollava qualche mese in più o anni in più di pena, perché avevi fatto avevi esortato alla violazione delle regole. Però il carcere, insomma, lo sfruttamento, o ci si combatte contro o non ci si combatte contro. Una terza strada non credo che ci sia. Chiuso questo argomento, poi casomai ci torneremo sopra, vedremo. Dunque, vediamo, purtroppo ci sono stati diversi morti, tre morti, i suicidi, o anche contiamo i suicidi. A Roma, intanto a Rebibbia, alla terza casa, però non quella in fondo, quella dove ci stanno prevalentemente i detenuti tossicodipendenti o comunque chi ha problemi di questo tipo, un ragazzo di 33 anni si è impiccato alla terza casa di Rebibbia, quella che sta in fondo a via Bartolo Longo. Si è impiccato a Verona, un 55enne si è suicidato, stava nella cosiddetta struttura protetta per malati psichiatrici. È una struttura protetta per malati psichiatrici ex detenuti, cioè lui era uscito dal carcere, però siccome dicevano che aveva problemi di salute mentale, quest'altra assurdità, no? Che vabbè, voglio dire, dopo il carcere come fai? Già non sono non sono a posto con la testa coloro che mantengono in piedi quella struttura assurda che è il carcere, ma è chiaro che se uno è stato in carcere, vabbè, e insomma, dopo uscito dal carcere l'hanno messo in questa struttura protetta perché ritenevano che avesse dei problemi di salute mentale, a questa persona gli è venuto la preoccupazione che tornasse poi da lì in carcere, forse gliel'hanno minacciata, e quindi si è impiccato perché ha detto: io non voglio tornare in carcere, non sono matto, e quindi si è impiccato e ha risolto il problema. E un altro a Cagliari, nel 28 anni, un ragazzo, e questi sono i dati drammatici. È uscito poi, adesso parliamo di questa cosa nell'ultima parte, è uscito un resoconto molto dettagliato sulla situazione del carcere per minori in Italia e in Europa. Allora, intanto in carcere in Italia i minori, donne, uomini, ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni sono 477 nelle carceri. 20.000 sono in carico ai servizi sociali. È una grossa differenza c'è tra chi sta in carcere e quelli che stanno ai servizi sociali. E questo è frutto di una delle, e questo va, bisogna dirlo, vedete come diciamo che in Italia per alcune cose è il peggior paese del mondo, o perlomeno d'Europa, per altre cose è il meno peggio. In questo caso per minori è il meno peggio, perché dopo una lunga battaglia fatta appunto ancora dagli anni 70 o gli 80, nell'89 è stata approvata una normativa per i minori e che ha ridotto duramente, drasticamente la presenza dei minori dietro le sbarre, cioè ha fatto in modo che le persone, i ragazzi e le ragazze di minore età che individuate come colpevoli di un reato bisognava assolutamente portarle in case d'accoglienza, cioè in misura alternativa, solo come estrema ratio, se continuavano a fare diciamo dimostrazioni pesanti oppure non si adeguavano a queste misure alternative, potevano andare in carcere. Cioè il carcere per i minori, secondo questa normativa dell'89, è veramente l'estrema ratio. Si poteva migliorare, infatti ci sono tanti disegni di legge tesi per approvarlo, perché in Italia è stata studiata molto il dramma, la cosa più schifosa del mondo, quello di tenere dei ragazzi e ragazze minori dietro le sbarre. È uno shock traumatico pari a quelli di una violenza, quando una ragazza subisce una violenza, uno stupro, ecco la stessa cosa, lascia un segno indelebile per tutta la vita, e quindi si è cercato di limitarlo. Le proposte delle leggi di questa normativa erano meglio ancora di quelle approvate e sono state presentate come modifiche, ma stiamo ancora all'89, si sta aspettando ancora queste proposte di miglioramento scusate, diventino legge. In questa situazione non è facile, pensando soltanto a chi calca le sedie del Parlamento. Comunque, però insomma non è il meno peggio dell'Europa, perché appunto la gran parte, 20.000 sono ai servizi sociali e 477 soltanto nelle carceri. Nel resto d'Europa è molto più alto, in altri posti, in altri paesi, perché appunto addirittura considerate che in Inghilterra e poi ripresa dalla Francia e poi via via si è diffuso in molte parti d'Europa, la punibilità per mezzo del carcere è scesa a 13 anni, addirittura a 12 in Inghilterra, a 13 nel resto d'Europa. Quindi a 13 anni una persona può essere messa in carcere, perché le bande giovanili, tutta questa retorica così, bande giovanili o non bande giovanili, è chiaro che mandare in carcere un ragazzo giovanissimo significa marchiarlo a vita. Questo è per quanto riguarda il carcere minorile. Riguardo alla presenza degli stranieri nelle carceri europee e quindi anche in Italia, anche qui è uscita una cura di Patrizio Cornella, sempre di Antigone, un panorama, un osservatorio fatto abbastanza bene, una panoramica che ci permette di capire com'è la situazione. Allora, intanto le persone carcerate in tutta Europa, tutti i 27 paesi europei che fanno parte dell'Unione Europea, che racchiudono 800 milioni di abitanti, l'Europa 27 ha 800 milioni di abitanti, presenta 1.737.000 persone incarcerate dietro le sbarre. La differenza è enorme, no? Avete visto in America, con una presenza di circa 300 milioni nemmeno, 300 milioni di abitanti, ve ne sono 2 milioni e mezzo dentro dietro le sbarre, quindi più del doppio, il triplo circa, no? Qui su 800 milioni di presenze sono 1.737.000. Però vediamo, quindi il tasso medio per 100.000 abitanti, si fa così, è 150 detenuti per ogni 100.000 abitanti. Questo è il tasso medio europeo. C'è stato un calo tra il 2011 e il 2012. In molti paesi è calato la presenza di detenuti. I paesi sono in particolare la Federazione Russa, la Spagna, la Turchia e la Svezia, ma anche Inghilterra, un po' minore, la Germania e l'Olanda. Questa diminuzione di presenze. In Italia c'è stato il calo tra il 2012 e il 2015 grazie alle leggi cosiddette svuota carcere, che hanno diminuito di poco la presenza, si è passati da 67-68 mila ai 55 mila attuali, quindi non tantissimo, che è ancora in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, però un po' di calo c'è stato, poi si è fermato, anzi sta ricrescendo dal 2014, il periodo più basso che si è raggiunto i 53.000 detenuti, adesso sta di nuovo crescendo, è arrivato a 55.000 detenuti. Poi l'altro dato importante, la presenza degli stranieri tra questi carcerati e carcerati sono 1.737.000. dunque la presenza maggiore di detenuti stranieri nelle carceri appartiene alla Svizzera. La Svizzera, la popolazione detenuta degli nelle carceri svizzere è per il 74% composte da persone non svizzere, non elvetiche, cioè stranieri. Ora, in Svizzera la durezza delle norme anti-immigrazione è purtroppo è conosciuta in tutto il mondo, è la più pesante, il paese più pesante che non accetta presenze immigrate, cioè ci stanno immigrati per lavorare, ma o sono presenze che entrano la mattina e escono la sera, per esempio gli italiani, i cosiddetti frontalieri, che è ancora molto pesante, cioè il traffico di frontiere, la mattina risiedono in Italia, la mattina varcano il confine, vanno a lavorare in Svizzera e la sera rientrano in territorio italiano. Poi ci stanno altri gruppi stranieri non integrati nella realtà svizzera, che vivono in una specie di campi di concentramento, lasciatemi passare il termine, loro non li chiamano così, per carità, però sì, sono più o meno dei dormitori dove vivono lì, la mattina escono per andare a lavorare nelle fabbriche, nei posti di lavoro svizzeri e la sera rientrano lì, non possono girare, non vivono, non vanno nei pub, nei cinema svizzeri, sono abbastanza chiusi. E questa è la dice tutta su questa situazione. Poi abbiamo paesi ancora che hanno una presenza di carcerati stranieri superiore al 40%, sono Andorra, Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, il Principato di Monaco, paesi piccolini che fanno ridere, ma anche due paesi abbastanza grandi, l'Austria col 46% e il Belgio col 42%. Invece i paesi a più grossa immigrazione come Francia e Inghilterra, che hanno il più grosso numero tra la popolazione di immigrati, hanno un livello abbastanza basso di carcerati. In Francia è il 17,9, in Inghilterra è il 12,6 di carcerati nelle carceri di questi due paesi, con una presenza di immigrati che è molto alta invece. In Italia com'è la situazione? Il 32%. Il dato del 2015, tutti questi dati sono del 2015 perché le rilevazioni si fanno col tempo necessario, sempre un po' di tempo dopo, ma comunque non è cambiata molto ad oggi. Nel 2015 in Italia il 32% di persone detenute era straniera, molto alta la percentuale, molto alta, di 11 punti superiore alla media europea. La media europea è intorno al 19-20%. E in Italia il 32% è molto molto alta, si avvicina ai record come Austria 46, Belgio 42. Allora in Italia gli stranieri regolarmente soggiornanti nel paese sono l'8% della popolazione, mentre i detenuti sono il 32%. Com'è questo dislivello enorme? Mentre per esempio in Francia e in Inghilterra il livello delle persone straniere detenute equivale alla percentuale della popolazione straniera risidente in quel paese. Perché è quello? Perché in Italia è quattro volte superiore, 8% di popolazione straniera tra la popolazione italiana, 32% nelle carceri di stranieri. Come mai così alta? Dice perché gli stranieri fanno più reati? No, assolutamente no, perché il meccanismo è stato qui analizzato, deriva da tanti fattori. Uno, le misure alternative per gli stranieri sono pressoché impossibili, perché non hanno una residenza fissa utile per le misure alternative, ci vuole una casa, un domicilio che sia verificabile, sia quindi normale, in un caso in affitto, che devono avere ovviamente tutte le carte in regola per avere la misura alternativa, devono avere un lavoro. Ora, poiché gli stranieri in Italia o lavorano al nero, o lavorano senza contratto, o lavorano in situazioni anomale, e poi soprattutto non vivono in case regolari, con contratti regolari, perché non se lo possono permettere in quanto non hanno i redditi sufficienti, è chiaro che non possono usufruire delle misure alternative. Da qui l'alto numero. Quindi i detenuti stranieri in genere si fanno tutta la carcerazione, non come gli italiani che possono usufruire degli sconti di pena, delle misure alternative e tutto il resto. Non solo, nel momento processuale la gran parte delle persone accusate, se sono stranieri, utilizzano l'avvocato d'ufficio, che chiaramente non fa difese, cioè, si rimette alla clemenza della corte, quindi hanno una situazione molto molto precaria, insomma, una difesa molto precaria. Poi vediamo l'altro aspetto, la custodia cautelare, cioè in carcere prima della condanna. In Italia era molto alta, era il 40% qualche tempo fa. Quello fu un punto sollevato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sanzionò l'Italia di quella multa pesantissima del 2011, ricordate, no? E che rischiava di reiterare, cioè ripeterla negli anni successivi, se non avesse diminuito la quota delle persone in custodia cautelare, cioè in carcere senza essere ancora stati condannati. Nonostante la famosa Costituzione, che è stata ultimamente al centro del dibattito, perché chi la voleva cambiare, chi la voleva preservare, chi diceva che era la migliore del mondo, chi diceva che era la peggiore, insomma, senza che nessuno l'avesse letta, perché nessuno l'ha letta, eppure è un libricino di poche pagine, però se ne su chi si faceva una bandiera, chi la condannava come il peggiore, chi diceva che era la più bella, tutte queste cazzate. Vabbè, invece la Costituzione dice che in carcere ci si va solo dopo la condanna definitiva. E come mai il terzo grado di giudizio? In Italia c'è il primo grado, se ti appelli anche l'appello, se ricorre in Cassazione anche la Cassazione, quindi tre gradi. E dice la Costituzione che in carcere si va a sentenza definitiva. Come mai il 40% stavano in carcere? Quindi questa Costituzione, nelle sue parti simpatiche, non è mai stata applicata. Sicuramente non l'è stata fino al 2012. Nel 2012, dopo la multa salatissima della Corte Europea, il Ministero ha deciso di diminuirla, ha fatto di queste leggi svuota carceri che hanno imposto al giudice che se vuole mettere una persona in carcere prima della sentenza deve motivare pesantemente che tenterà la fuga con prove o che inquinerà le prove, e quindi insomma praticamente è diminuita di molto, avendo costretto i giudici a motivare l'arresto, la custodia cautelare, l'arresto preventivo, e quindi è scesa dal 40 al 25%, ancora però superiore alla media europea di 12 punti. Inoltre la custodia cautelare non è uguale per tutti, anche qui sono più alti in percentuale alla popolazione detenuta gli stranieri che non gli italiani, e anche qui si spiega per il meccanismo: non hanno l'avvocato che può impugnare l'arresto, la custodia cautelare, no? E qui ci vuole un avvocato per impugnarla, non sanno a volte nemmeno cosa fare, ma soprattutto non hanno appunto la possibilità di pagarsi un avvocato in grado di sollevare la questione. E vabbè, questo è un po' il quadro che emerge. Prendiamoci un altro piccolo stacco. Terminiamo, mancano un minuto e mezzo questa trasmissione con alcune proteste, e appunto questo per ricordare all'inizio, no? Allora, Cassino, carcere di Cassino, provincia di Frosinone, alcuni detenuti del carcere di San Domenico hanno fatto una protesta. È successo, non è che se la sono inventata così, è successo che è crollato il pavimento della sala, di una sala di ritrovo di questa, immaginate come sono ben una buona manutenzione nei carceri, ma potete immaginare, e quindi vabbè, loro hanno protestato per questo fatto, ci cascava in testa eccetera. Allora hanno fatto una piccola protesta, poi un detenuto si è incavolato ancora di più, ha distrutto la cella e perché voleva, dice, trasferiteci in un altro. Tra l'altro lui ha preso pretesto giusta questa protesta collettiva per dire: io voglio tornare più vicino alla mia famiglia, perché appunto è previsto pure qui la legge, i regolamenti dicono che devi stare in prossimità della tua famiglia, poi col cavolo però, quindi ha sfasciato tutto. A quel punto altri detenuti hanno ripreso la sua protesta, più o meno ognuno aveva, diciamo, una sottolineatura particolare, però insomma era tutta la situazione che non funziona, hanno fatto tutto questo.